Ad alta voce. Ennio Fantastichini legge Ernest Hemingway. Campo indiano. Sulla riva del lago c'era un'altra barca a remi tirata in secco. I due indiani aspettavano in piedi. Nick e suo padre si misero a poppa e gli indiani spinsero in acqua la barca e uno di essi si mise ai remi. Zio George sedeva a poppa nella barca a remi del campo. L'indiano giovane spinse in acqua la barca del campo e si mise ai remi per portare zio George. Le due barche partirono nel buio. Nick appoggiava la schiena alla sponda e aveva un braccio di suo padre sulle spalle. Faceva freddo sull'acqua. L'indiano che li portava remava con tutte le sue forze, ma l'altra barca era sempre davanti a loro, nella nebbia. «Dove andiamo, papà?» chiese Nick. «Al campo indiano. C'è una donna che sta molto male.» «Oh!» disse Nick. Sull'altra sponda della baia trovarono l'altra barca sulla spiaggia. Zio George fumava un sigaro nel buio. E l'indiano giovane tirò la barca sulla spiaggia. Zio George diede agli indiani un sigaro per uno. Dalla spiaggia attraversarono un prato che si stava inzuppando di rugiada, seguendo l'indiano giovane che portava una lanterna. Poi entrarono nel bosco e seguirono un sentiero che sbucava nella strada lungo la quale si trasportavano i tronchi. Questa strada si addentrava su per le colline. C'era molta più luce sulla strada perché gli alberi erano stati abbattuti da tutte e due le parti. L'indiano giovane si fermò a spegnere la lanterna e tutti continuarono a camminare lungo la strada. Dopo una curva uscì un cane, latrando, e davanti a loro c'erano le luci delle capanne dove abitavano gli scortecciatori indiani. Altri cani corsero loro incontro. I due indiani li ricacciarono verso le capanne. E nella capanna più vicina alla strada c'era una finestra illuminata. Una vecchia era ritta sulla soglia, con un lume in mano. Dentro, una giovane indiana giaceva su una cuccetta di legno. Da due giorni cercava di avere il suo bambino. Tutte le vecchie del campo l'avevano aiutata. Gli uomini si erano allontanati lungo la strada per sedersi nel buio e fumare in un posto dove non si udissero le urla che mandava. La donna urlò proprio nel momento in cui Nick e i due indiani seguirono suo padre e zio George nella capanna. Giaceva nella cuccetta inferiore, grossissima, sotto una coperta. Aveva la testa voltata da una parte. E nella cuccetta superiore c'era suo marito. Si era tagliato un piede in malo modo con un'ascia tre giorni prima. Fumava la pipa. C'era una gran puzza nella stanza. Everybody is going out and having fun. I'm a fool for staying home and having none. I can't get over. Il padre di Nick ordinò di mettere dell'acqua sul fornello e mentre l'acqua si scaldava gli parlò. «Questa donna sta per avere un bambino, Nick», disse. «Lo so», disse Nick. «Tu non sai niente», disse suo padre. «Ascoltami, quelle che ha adesso si chiamano le doglie. Il bambino vuole nascere e lei vuole che nasca. Tutti i suoi muscoli si sforzano di far nascere il bambino. È questo quello che succede quando grida.» «Capisco», disse Nick. Proprio allora la donna lanciò un grido. «Oh, papà, ma non puoi darle qualcosa per farla smettere di gridare?» chiese Nick. «No, non ho anestetici», disse suo padre. Ma le sue grida non sono importanti. Io non le sento perché non sono importanti. Nella cuccetta di sopra il marito girò la faccia contro il muro. La donna in cucina segnalò al dottore che l'acqua era calda. Il padre di Nick andò in cucina e versò in un catino circa metà dell'acqua contenuta nel pentolone. Nell'acqua rimasta nella pentola mise diverse cose che aveva tolto da un fazzoletto. «Queste devono bollire», disse. E cominciò a lavarsi le mani nel catino di acqua calda con un pezzo di sapone che aveva portato dal campo. Nick guardava le mani di suo padre, che si insaponavano a vicenda. Mentre si lavava le mani a fondo e con estrema cura, suo padre parlava. «Vedi, Nick, i bambini dovrebbero nascere con la testa in avanti, ma certe volte non è così. Quando non sono in questa posizione... Beh, allora rendono la vita difficile a tutti. Forse dovrò operare questa donna. Lo sapremo tra poco». Quando fu soddisfatto delle sue mani, rientrò nella stanza e si mise all'opera. «Tira giù quella coperta, ti spiace, George?» disse. «Preferisco non toccarla». Più tardi, quando cominciò a operare, il zio George e tre indiani tennero ferma la donna. La donna diede a zio George un morso su un braccio. E zio George disse: «Ma maledetta puttana di una squaw!» E l'indiano giovane che lo aveva portato con la barca scoppiò in una risata. Nick reggeva il catino per suo padre, ma tutto questo richiese molto tempo. Suo padre sollevò il bambino e gli diede uno schiaffo per farlo respirare e lo passò alla vecchia. «È un maschio, Nick», disse. «Allora ti piace fare l'assistente?» Nick disse: «Certo», guardava da un'altra parte per non vedere quello che faceva suo padre. «Là, ecco fatto», disse suo padre e mise qualcosa nel catino. Nick non guardò che cos'era. «Ora», disse suo padre, «ci sono dei punti da dare. Puoi guardare o no, Nick, come preferisci. Io devo cucire l'incisione che ho fatto». Nick non guardò. Da un pezzo gli era passata la curiosità. Suo padre finì e si raddrizzò. Si raddrizzarono anche zio George e i tre indiani. Nick riportò il catino in cucina. Zio George si guardò il braccio. Al ricordo l'indiano giovane sorrise. «Ci metterò un po' di acqua ossigenata, George», disse il dottore. Si chinò sull'indiana. L'indiana ora taceva e teneva gli occhi chiusi. Era pallidissima. Non sapeva che fine avesse fatto il bambino o che diavolo fosse successo. «Tornerò domattina», disse il dottore, alzandosi. «L'infermiera dovrebbe essere qui da Saint-Ignace a mezzogiorno e porterà tutto l'occorrente». Si sentiva eccitato e ciarliero come i giocatori di football negli spogliatoi dopo la partita. «Ecco un caso da segnalare alla rivista di medicina, George», disse. «Fare un cesareo con un coltello a serramanico e ricucirlo con 2,5 metri di basso di lenza di budella». Zio George era ritto contro il muro e si guardava il braccio. «Oh, certo, sei un grand'uomo», disse. «Diamo un'occhiata al padre Felice. Di solito sono quelli che soffrono di più in queste faccenduole», disse il dottore. «Ma devo dire che si è comportato benissimo». Tolse la coperta dalla testa dell'indiano, ma la mano che ritirò era bagnata. Allora salì sul bordo della cuccetta inferiore con la lampada in mano e guardò dentro. L'indiano giaceva con la faccia verso il muro e la sua gola era tagliata da un orecchio all'altro. Il sangue era colato fino a formare una pozza là dove la cuccetta si abbassava sotto il peso del suo corpo. La sua testa era posata sul braccio sinistro. Il rasoio aperto giaceva col taglio della lama all'insù, tra le coperte. «Porta Nick fuori dalla capanna, George», disse il dottore. «Non ce n'era bisogno». Nick, ritto sulla porta della cucina, aveva potuto vedere bene la cuccetta superiore quando suo padre, con la lampada in mano, aveva voltato la testa dell'indiano. Stava appena cominciando ad albeggiare quando presero la strada dei tronchi per tornare verso il lago. «Mi spiace moltissimo di averti portato, Nicky», disse suo padre, che aveva perso tutta la sua esultanza post-operatoria. «Ti ho trascinato in un gran brutto pasticcio». «È sempre così dura per le donne avere dei bambini?» chiese Nick. «No, quello era un caso veramente eccezionale». «Perché si è ucciso, papà?» «Non so, Nick. Non ha potuto resistere, immagino». «Molti uomini si uccidono, papà?» «No, non moltissimi, Nick». «Molte donne?» «Quasi mai». «Qualche volta?» «Oh, sì, qualche volta». «Papà?» «Sì. Ma dove è andato zio George?» «Ci raggiungerà». «È difficile morire, papà?» «No. Credo che sia piuttosto facile, Nick». «Dipende». Erano seduti nella barca, Nick a poppa, suo padre ai remi. Il sole sorgeva dietro le colline. Un pesce persico saltò fuori dall'acqua, formando un cerchio sulla sua superficie. Nick trascinava la mano nell'acqua. Era tiepida nel freddo pungente del mattino. Quella mattina presto, sul lago, seduto a poppa con suo padre che remava, si sentiva assolutamente sicuro che non sarebbe mai morto. Comes a time when you're drifting, comes a time when you settle down, comes a light, feelings lifting. Lift that baby right up off the ground. 10 indiani. Dopo un 4 luglio, Nick, tornando a casa tardi dal paese sul grande carro con Joe Gardner ed i suoi, sorpassò lungo la strada 9 indiani ubriachi. Si ricordava che erano 9 perché Joe Gardner, guidando il carro nell'oscurità, aveva fermato i cavalli, era saltato giù e aveva tolto un indiano dalla carreggiata. L'indiano dormiva sulla sabbia, a faccia in giù. Joe lo trascinò tra i cespugli e risalì a cassetta. «Con questo fanno 9!» disse Joe. «Solo tra qui e le ultime case del paese». «Ah, questi indiani», disse la signora Garner. Nick era sul sedile posteriore con i due figli dei Garner. Guardava dal sedile posteriore per vedere l'indiano sul ciglio della strada dove Joe lo aveva trascinato. «Era Bill Tabershaw?» domandò Carl. «No, dai calzoni sembrava proprio Billy». «Gli indiani portano tutti lo stesso tipo di calzoni». «Io non l'ho visto», disse Frank. «Papà è sceso dal carro ed è rimontato su prima che io potessi veder niente. Credevo che stesse ammazzando un serpente». «Mi sa tanto che stanotte un mucchio di indiani ammazzeranno serpenti», disse Joe Garner. «Oh, questi indiani», disse la signora Garner. Tirarono diritto. La strada si staccava da quella principale e saliva tra le colline. Era dura per i cavalli e i ragazzi scesero dal carro e proseguirono a piedi. La strada era sabbiosa. Arrivato in cima alla salita vicino alla scuola, Nick si voltò indietro. Si vedevano le luci di Petoskey e lontano, oltre Little Traverse Bay, le luci di Harbor Springs. Risalirono sul carro. «Dovevano metterci della ghiaia in quel tratto», disse Joe Garner. Il carro andava lungo la strada in mezzo ai boschi. Joe e la signora Garner sedevano l'uno accanto all'altra sul sedile anteriore. Nick sedeva tra i due ragazzi. La strada sbucò in una radura. «Papà ha investito la puzzola proprio in questo punto». «È stato più avanti». «Non importa dove è stato», disse Joe, senza voltare la testa. «Un posto vale l'altro quando si tratta di investire una puzzola». «Ho visto due puzzole ieri sera», disse Nick. «Dove?» «Giù, vicino al lago. Cercavano pesci morti lungo la spiaggia». «Probabilmente erano dei procioni», disse Carl. Erano puzzole, le conoscerò le puzzole, no? Dovresti, disse Carl. Ti sei trovato una ragazza indiana? Non parlare così, Carl, disse la signora Garner. Beh, hanno più o meno lo stesso odore. Joe Garner scoppiò in una grande risata. Smettila di ridere, Joe, disse la signora Garner. Non voglio che Carl parli così. Ti sei trovato una ragazza indiana, Nicky? Chiese Joe. No. Sì, papà, disse Frank. Prudence Mitchell è la sua ragazza. Non è vero. Va a trovarla tutti i giorni. Non è vero. Nick, seduto tra i due ragazzi nell'oscurità, si sentiva vuoto dentro e felice al tempo stesso all'idea che lo stuzzicassero su Prudence Mitchell. Non è la mia ragazza, disse. Sentilo, disse Carl. Io li vedo insieme tutti i giorni. Carl non riesce a trovarsi una ragazza, disse sua madre. Nemmeno una squaw. Carl non disse nulla. Carl non ci sa fare con le ragazze, disse Frank. Taci tu. Hai ragione, Carl, disse Joe Garner. Le ragazze non hanno mai fatto fare a un uomo molta strada. Guardate vostro padre. Sì, questo lo dici tu, disse la signora Garner, stringendosi a Joe mentre il carro sobbalzava. Beh, una volta eri pieno di ragazze. Scommetto che papà non si sarebbe mai messo con una squaw. Lasciamo stare, disse Joe. Meglio che tu tenga gli occhi aperti se non vuoi perdere la tua Prudy, Nick. Sua moglie gli sussurrò qualcosa e Joe rise. Perché ridi? Chiese Frank. Non dirlo, Garner, ammonì sua moglie. Joe rise di nuovo. Nicky può tenersi la sua Prudence, disse Joe Garner. Io la mia ragazza ce l'ho già. Questo si chiama parlare, disse la signora Garner. I cavalli faticavano sulla strada sabbiosa. Joe si sporse nel buio con la frusta. Su, coraggio! Domani dovrete tirare più forte di così. Trottavano giù per la lunga discesa col carro sobbalzante. Alla fattoria tutti smontarono. La signora Garner aprì la porta, entrò e uscì con un lume in mano. Carl e Nick scaricarono la roba dal carro. Frank si mise a cassetta per andare nella stanza e mettere i cavalli al coperto. Nick salì i gradini e aprì la porta della cucina. La signora Garner stava accendendo il fuoco nella stufa. Mentre versava il cherosene sulla legna, si voltò. Arrivederci, signora Garner, disse Nick. Grazie per avermi accompagnato. Oh, uffa, Nicky. Mi sono proprio divertito. Ci fa piacere averti con noi. Non vuoi fermarti a mangiare un boccone? Meglio che vada. Credo che papà mi stia aspettando. Beh, allora va. Mandami Carl. Va bene. Buonanotte, Nicky. Buonanotte, signora Garner. Nick uscì dalla corte ed entrò nella stalla. Joe e Frank stavano mungendo. Buonanotte, disse Nick. Me la sono davvero spassata. Buonanotte, Nick, gridò Joe Garner. Non vuoi fermarti a mangiare? No, non posso. Vuol dire a Carl che sua madre lo cerca? D'accordo. Buonanotte, Nicky. Nick camminò a piedi nudi lungo il sentiero che passava in mezzo al prato sotto la stalla. Il sentiero era liscio e la rugiada era fresca sui suoi piedi nudi. Nick scavalcò un recinto in fondo al prato, scese in un fosso bagnandosi i piedi nel fango dell'acquitrino e poi risalì dall'altra parte in mezzo all'asciutto faggeto perché vide la luce della casa. Scavalcò il recinto e girò intorno alla casa fino alla veranda sul davanti. Dalla finestra vide suo padre seduto vicino al tavolo che leggeva la luce della lampada grande. Nick aprì la porta ed entrò. «Beh, Nicky», disse suo padre, «è stata una bella giornata?» «Mi sono molto divertito, papà. È stato un bellissimo 4 luglio». «Hai fame?» «Puoi dirlo». «Cosa hai fatto delle scarpe?» «Le ho lasciate sul carro di Garner». «Andiamo in cucina». Il padre di Nick andò avanti col lume. Si fermò e alzò il coperchio della ghiacciaia. Nick lo seguì in cucina. Suo padre portò un pezzo di pollo freddo su un piatto e una brocca di latte e li mise sul tavolo davanti a Nick. Depose il lume. «C'è anche della torta», disse. «Basterà?» «Ottimo». Suo padre si sedette su una seggiola vicino al tavolo coperto di tela cerata. Proiettava una grande ombra sul muro della cucina. «Chi ha vinto la partita?» «Petoskey, 5-3». Suo padre sedeva guardandolo mangiare e gli riempiva il bicchiere di latte. Nick beve e si pulì la bocca sul tovagliolo. Suo padre si sporse verso la credenza per prendere la torta. Ne tagliò un grosso pezzo per Nick. Era una torta di mirtilli. «Tu che hai fatto, papà?» «Stamattina sono andato a pescare». «E cosa hai preso?» «Ah, solo persici». Suo padre, seduto, guardava Nick mangiare la torta. «Oggi pomeriggio cosa hai fatto?» chiese Nick. «Una passeggiata vicino al campo indiano». «Hai visto qualcuno?» «Gli indiani erano tutti in paese a ubriacarsi». «Ma non hai visto proprio nessuno?» «Ho visto la tua amica, Prudy». «E dov'era?» «Era nel bosco, con Frank Washburn. Li ho incontrati per caso. Se la stavano spassando». Suo padre non lo guardava. «Che facevano?» «Non mi sono fermato per scoprirlo». «Ma dimmi cosa facevano!» «Non so», disse suo padre. «Li ho sentiti solo muoversi, qua e là». «E come sapevi che erano loro?» «Li ho visti». «Credevo che avessi detto di non averli visti». «Oh, sì, li ho visti». «E chi c'era con lei?» chiese Nick. «Frank Washburn». Erano cosa?» «Erano felici?» «Direi di sì». Suo padre si alzò da tavola e uscì dalla porta della cucina. Quando tornò indietro, Nick stava guardando il piatto. Aveva pianto. «Ne vuoi ancora?» Suo padre prese il coltello per tagliare la torta. «No», disse Nick. «Faresti meglio a prenderne un altro pezzo». «No, non ne voglio più». Suo padre sparecchiò la tavola. «Dove erano, nel bosco?» chiese Nick. «In alto, dietro il campo». Nick guardava il piatto. Suo padre disse: «Meglio che tu vada a letto, Nicky». «D'accordo». Nick andò in camera sua, si svestì e si mise a letto. Sentiva suo padre muoversi nel soggiorno. Nick giaceva sul letto col viso affondato nel cuscino. «Ho il cuore spezzato», pensava. «Se mi sento così, devo avere il cuore spezzato». Dopo un po', udì suo padre spegnere il lume e andare in camera sua. Udì levarsi una brezza tra gli alberi e la sentì entrare fresca dalla reticella della finestra. Giacque a lungo col viso nel cuscino e dopo un po' si dimenticò di pensare a Prudence e finalmente si addormentò. Nella notte, quando si svegliò, udì il vento tra gli abeti intorno alla casa e le onde del lago che si rompevano sulla riva. Riprese sonno. La mattina c'era un gran vento che soffiava e le onde si inseguivano altissime sulla spiaggia, e lui era già sveglio da un sacco di tempo prima di ricordarsi che aveva il cuore spezzato. Ennio Fantastichini ha letto Ernest Hemingway, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it